puntata Brussellando Radio Alma, martedì sera. Benvenuti come al solito martedì ai microfoni, e siamo ovviamente felici di essere nuovamente qui con voi. E questa sera è una puntata dedicata, e una delle altre puntate dedicate all'Unità d'Italia, quindi alle celebrazioni che sono in corso un po' dappertutto, insomma, alcune hanno già avuto luogo qui a Bruxelles, altre sicuramente, come saprete, sono organizzate un po' dappertutto in tutta la penisola e non solo, perché credo che un po' dappertutto dove ci siano comunità italiane ci si ritrovi, insomma, a parlare, a discutere, insomma, a rispolverare anche un po' delle cose, perché molto spesso la memoria, così come tante altre cose, davvero ha bisogno di essere di tanto in tanto ricordata, celebrata e omaggiata. Bene, e ne parleremo tra l'altro con un ospite che avevamo già avuto modo di intervistare qualche tempo fa su un tema completamente diverso, che era il ruolo delle case editrici. E invece questa sera Simone Marchi, il responsabile della casa editrice Barbera, ci racconterà delle donne e degli uomini che hanno cambiato l'Italia. Quindi, insomma, ci sono personaggi che in un modo o in un altro sono riusciti ad incidere in quella che è la nostra storia più recente. Saluto Dani M. Regia. Buonasera a tutti. Saluto i nostri Giorgio. Eccoci. E saluto anche un ospite che abbiamo qui in studio, che non credo prenderà la parola, perché vedo che già scomparsa. È scomparso, l'ospite è scomparso, la famosa, il mistero dell'ospite scomparso. L'ospite era qui, a un certo punto si è dileguata, forse perché lei non ama molto parlare alla radio in generale. Di tanto in tanto ci viene a trovare, ci viene a far visita, ed è mia sorella Federica, che di tanto in tanto, insomma, negli ultimi anni di questi tempi fa capolino nella capitale d'Europa, questa nostra Bruxelles. Si fa le ferie. Ma qui sta a studiando ora per il momento, poi la settimana prossima poi sarà di ferie. Poveraccia, mi dispiace, un giorno mi ringrazierà, invece, al contrario. Probabilmente ora non ha piacere, ma tra qualche anno mi ringrazierà. Sì, se non ti manderà da qualche parte, per esempio a visitare qualche paese, andremo, sì, potrebbe mandarti lei, invitarti a qualche paese, sì, ci potrebbe qualche... anche mandare, cioè, beh, ti manda a visitare qualche paese, sicuramente mi ci manda, e fare qualche ci corso manda. E fare qualche corso intensivo. e va bene, eccoci qua. Ebbene, quindi, tra l'altro, l'agenda bruxelloise questa settimana non è molto ricca. Abbiamo appena chiuso i 3 giorni intensi di Coup del Caffè, che, come sapete, insomma, è uno di quegli eventi che ormai ha preso piede qui a Bruxelles. Ci sono però altri festival in giro, soprattutto a Flagey in questo periodo. Però avremo modo di parlarne. Ci sono già, insomma, tanti con la testa per le vacanze, insomma, già si parla anche di vacanze. Giorgio, tu dove andrai in vacanza quest'anno? Quest'anno farò niente di particolare, un'estate un po' tranquilla, passata con i cari. Con i cari? Con i miei cari, sì, con sì. I nostri cari. Ho capito. Beh, è un po' diverso dal solito, nel senso che di solito noi giriamo molto, me ne sono andato parecchie volte all'estero, però quest'anno già abbiamo fatto il Sud Italia, e non era male, devo dire, che mi mancava un pezzo di Sud Italia che mi mancava, e magari, che ne so, anche quest'anno farò qualcosa. Manderò... In Italia? Sì, in Italia è paese dell'est, diciamo. Ho capito, per giocare in casa. Per giocare in casa, certo. Mi sembra giusto, altrimenti poi... Ah. Ma devo dire che il giro dell'ultima volta della Transilvania non era male. Ho fatto un pezzettino a Transilvania, bisognerebbe proseguire. Solo che a dispetto delle distanze la Transilvania crea un sacco di problemi. Cioè 50 km, mentre qui 50 km si fanno in 5 minuti perché sono tutte autostrade, in Transilvania 50 km sono veri 50 km, nel senso che... Anche cioè, con puoi un'auto... contarli centimetro dopo centimetro. Sì, si va al massimo sasso a 50 all'ora. Buca dopo buca. Non si può andare più di 50 perché sennò non si riesce a evitare le buche. E una volta che hai preso una buca di quelle che hanno degne di questo nome, che sono tante, e beh, puoi lasciare la macchina lì dove l'hai trovata, insomma, dove hai preso la buca. E dirle ciao. Quindi non è il caso di andare veloci. Per cui, insomma, non si coprono molte distanze se va molto lenti. Ah. E oltre al dissesto delle strade sono anche poche autostrade, quindi, insomma, Non è facile, non è facile. Bene. Io direi che effettivamente l'idea di, insomma, anche di restare un po' a casa, per noi che siamo sempre un po' vagabondi, esuli, in giro, ora a destra, ora a sinistra, in realtà direi, insomma, di trascorrere anche vacanze casalinghe potrebbe essere un'ottima idea. Chissà, infatti a me non dispiace. Magari possiamo anche raccogliere suggerimenti di viaggio e vedere. Ma noi abbiamo lasciato con un'altra trasmissione, abbiamo lasciato in piedi un viaggio in Australia. Quindi sì, magari potremmo pensare di finire questa definizione del viaggio in Australia, questo racconto del viaggio australiano. Vedi, perché non ci avete mai raccontato abbastanza, credo, sul viaggio in Australia. Ma io credo che a Bruxelles non abbiamo mai detto nulla del viaggio australiano, ad essere onesti. Beh, quindi insomma, magari devo lasciare la parola di Nat. Abbiamo molto parlato del Giappone, però meno dell'Australia. Prego, lascio la parola. Mi lasciano la parola. Dai, intratto saliente. Intratto saliente. Cioè, l'Australia è un continente, quindi è gigantesco. E la cosa più interessante di questo continente è che è verde attorno, è brullo dentro. E quindi anche i primi esploratori che l'hanno attraversata non hanno trovato acqua, mentre si aspettavano di trovare una bellissima un bellissimo posto ricco di varie cose. E infatti, però, questo è anche molto affascinante, cioè è un posto povero in povero in verdura, diciamo, però è bellissimo per la sua dominanza, cioè diciamo, cioè l'unico posto probabilmente ancora al mondo dove c'è una dominanza assoluta della natura sopra l'uomo, e l'uomo deve lottare ogni centimetro di terreno. Sì, è vero. Come hai spiegato in modo pittoresco ma anche divertente da un nostro amico, mi ha detto: beh, in Australia si trovano un sacco di animali estremamente pericolosi, con un veleno potentissimo. Quindi ci sei anche tu lì? Infatti io sono andato con loro, mi sono battuto, però non ho perso, ho resistito. Però comunque, insomma, ci sarà il motivo. Ma mi fanno segno alla regia, con le manine alzate, che dovremmo avere qualcuno in linea. Simone! Sì, buonasera, salve a tutti. Buonasera, benvenuto. La volta scorsa avevamo parlato un po' del futuro delle case editrici. Questa sera invece abbiamo il piacere di intervistarti proprio come autore. Le donne e gli uomini che hanno cambiato l'Italia. Poi hai descritto 20 storie di uomini e di donne che in un certo modo hanno segnato e cambiato la storia d'Italia. E ci chiedevamo, il libro poi tra l'altro è in libreria disponibile dal 28 aprile, quindi insomma è una pubblicazione anche recente, nasce come ricordo a questo anniversario del 150esimo della nostra unità, oppure era un progetto al quale già avevi pensato e che quindi casualmente poi si ritrova ad essere pubblicato proprio quest'anno? No, allora nasce come ricordo, come una delle tante opere che sono uscite per l'anniversario dei 150 anni. Si inserisce in una collana che noi abbiamo che racconta storie di uomini e donne di vario genere, dagli uomini più potenti alle donne più potenti, agli uomini e le donne più belle a quelli più cattivi. Quindi diciamo sono state unite le due cose, l'idea di fare un libro che in qualche modo raccontasse in maniera diversa la storia d'Italia e che potesse far parte di una collana già esistente. In base a quale criterio avete selezionato poi queste 20 personalità? Qual è stato il vostro filo d'Arianna? Allora, il filo conduttore è stato quello di cercare di raccontare tutte le sfaccettature dell'Italia. Come ho scritto anche nell'introduzione, l'Italia è una nazione relativamente giovane, quindi non ha una storia condivisa che può derivare da istituzioni o da guerre, battaglie, che solitamente sono le cose che poi creano l'unità e l'identità nazionale. L'Italia ha una sua identità per i gesti, le azioni dei singoli personaggi, e quindi il filo conduttore che va poi da Giulio Cesare a Gianni Agnelli è quello, cioè di cercare di raccontare 20 biografie in cui ognuno potesse ritrovare qualcosa che fa parte ormai della nostra identità. E quindi in ogni biografia ho cercato di mettere in risalto qualcosa che poi accomuna un po' tutti gli italiani. E raccontaci, quindi ci sono sia uomini sia donne. Tra questi 20 personaggi, magari possiamo scegliere un uomo e una donna, insomma, su cui magari concentrare la nostra attenzione? Allora, so che è difficile, mi rendo conto, senza nulla togliere poi agli altri, però insomma magari... Certo. Ma allora, sugli uomini, che è stata anche una scelta abbastanza difficile, perché trovare soltanto 10 uomini che hanno cambiato la storia d'Italia è compito tutt'altro che facile, visto che ce ne sono molti e in vari settori. Sugli uomini sarò un po' banale, però io posso dirtene due di uomini? Sì, dai, sì, anche due. Uno, che è quello banale, che però è Giuseppe Garibaldi, perché, ecco, dovendo raccontare in poche pagine fare una piccola sua biografia in poche pagine, mi sono documentato molto e ho trovato un personaggio affascinante, che va molto al di là di quello che magari si studia sui libri di storia o anche su comunque una dispensa universitaria. È un sognatore, un utopista, un testardo, che magari decontestualizzato dal periodo storico in cui è vissuto, e quindi comunque un periodo risorgimentale e in cui le battaglie, le guerre erano all'ordine del giorno, gli slanci anche folli erano all'ordine del giorno, risulta, magari a tratti può risultare anche veramente un utopista senza il minimo senso pratico. Mi ha colpito molto il fatto, per citare un piccolo aneddoto, che dopo la spedizione dei Mille, lui si era nuovamente ritirato a Capraia, però ogni 2-3 mesi organizzava una spedizione per cercare di andare a liberare anche Roma. Quindi ogni 2-3 mesi Garibaldi partiva, poi veniva incarcerato, poi veniva scarcerato, perché ovviamente la sua figura aveva troppo prestigio per poter rimanere in carcere, e poi ripartiva. E ci sono un sacco di aneddoti, ho trovato moltissimi aneddoti che fanno anche ridere, che però hanno contribuito, almeno a mio parere, a rendere il personaggio molto affascinante. E l'altro brevemente è Dante, perché noi tutti lo conosciamo come grandissimo poeta, quale ovviamente è che ha il merito di aver introdotto comunque in qualche modo il volgare nella lingua italiana, nelle opere scritte, però mi ha affascinato molto la sua carriera da politico, perché Dante fino al 1300, più che il poeta, era un politico affermatissimo, scaltro e anche molto lungimirante, prima a vedere la possibilità di cercare di unire comunque in qualche modo lo Stato e la Chiesa per creare un'identità. Vabbè, mi sembra abbastanza interessante, quindi in realtà non hai coperto soltanto personaggi, diciamo, post-unitari, ma anche personaggi in un certo senso che hanno contribuito all'identità italiana. Esatto, sì, l'idea di partenza è quella proprio di pensare l'Italia addirittura dai romani, cioè ho messo per gioco anche Romolo e Remo e poi Giulio Cesare, quindi l'idea è proprio quella, proprio perché... nella ricerca di un'identità nazionale comune, che nasce ben prima ovviamente del 1861. Sicuramente. Invece veniamo all'aspetto, diciamo, femminile del libro. Quali sono state le due personalità, già che ci siamo, che ti hanno particolarmente colpito? Allora, guarda, per le donne è stato un po' più difficile, ammetto, riuscire a trovare delle figure che realmente poi hanno cambiato la storia, se non andando magari nelle figure di politiche come possono essere Nilde Iotti o Tina Anselmi, che ho messo. Due figure che mi hanno affascinato molto sono, e sono anche poco conosciuti, e questo magari è il bello, Artemisia Alomi Gentileschi, che è una pittrice vissuta intorno al 1500, che è stata praticamente la prima donna a emergere in un mondo prettamente maschile. È stata una donna cosmopolita che ha viaggiato tantissimo per l'Italia, perché è nata a Roma, poi per varie vicissitudini si è trasferita a Firenze, poi è andata a Napoli, poi a Londra e di nuovo a Napoli. E quindi anche questo suo viaggiare per le corti italiane ha contribuito in qualche modo a creare una forma di unità, nel senso di portare in giro per le varie grandi città italiane valori simili, che poi erano chiaramente quelli dell'arte, della pittura o comunque dell'arte in genere. È una figura che mi ha affascinato molto perché è la classica donna emancipata che sembra una donna modernissima, ha avuto varie storie con vari uomini, ha dovuto fuggire da Roma proprio per una vicenda legata all'amore ma anche a delle violenze, e è stata la prima pittrice che si è affermata in un mondo prettamente maschile. Noi conosciamo tantissimi pittori famosissimi italiani, ma pochissime pittrici. E quali sono stati quali sono state in questo caso le fonti a cui tu hai potuto attingere? Poi passiamo al secondo personaggio, però su questo personaggio in particolare, come hai saputo, insomma, anche dell'esistenza, insomma, di... Ok, dunque, l'esistenza, perché una collega, ho detto molto semplicemente, una collega in casa editrice è grande appassionata di arte e me ne ha parlato. In realtà poi ho scoperto che ci sono vari libri e anche un film dedicato alla sua vita, che adesso, di cui adesso onestamente non ricordo il titolo, però in realtà è stato più semplice del previsto, perché ci sono due o tre biografie, addirittura una storia romanzata della sua vita più un film. Ah, però quindi tutto sommato era lì, bisognava solo, insomma, lanciare. Cercavo un po', sì. Ah. Sì. E invece il secondo personaggio? Il secondo personaggio è Virginia Aldoini, che è la contessa di Castiglione, che questo è un personaggio affascinante che per certi versi è simile a Artemisia Gentileschi, anche se è vissuta circa 300 anni dopo. È praticamente una delle donne del Risorgimento. Non è certo Anita Garibaldi, però è stata una donna di corte, sposata con un cugino di Camillo Benso, conte di Cavour, è stata praticamente inviata in Francia per la sua bellezza, ma anche per le sue doti diplomatiche, per le sue conoscenze delle lingue francese e inglese in particolare, cosa abbastanza rara per le donne dell'epoca, a fare vera attività di diplomazia. È stata inviata in Francia alle corte di Napoleone III alcuni mesi prima della fine della guerra in Crimea, con, si dice, lo scopo di convincere l'imperatore a far sedere ai tavoli della pace anche l'Italia. E quindi attraverso la diplomazia, ma non solo, ma magari anche qualche dote femminile, la leggenda narra che sia riuscita, che il merito sia anche suo. La cosa che mi ha colpito molto è che una volta terminato questo compito, e una volta fatta l'Italia, una volta che Vittorio Emanuele II era diventato re d'Italia, diciamo, un po' la corte sabauda si è dimenticata di lei, fino a farla morire in solitudine e nell'anonimato più totale. Ed è una storia di donna che mi ha colpito molto, perché, ecco, da essere catapultata al centro degli intrighi della politica nazionale e internazionale, è morta praticamente in solitudine e dimenticata dalle stesse persone che avevano contribuito a renderla un personaggio di spicco delle diplomazie internazionali. A proposito di diplomazia internazionale, tra i personaggi di cui tu citi parli anche di Lorenzo il Magnifico. Sì, esatto. E quindi mi chiedevo, da questo punto di vista, qual era stata l'interpretazione che tu hai fornito, insomma, di questo personaggio estremamente poliedrico e... Allora, per Lorenzo il Magnifico, diciamo, le motivazioni principalmente sono due. La prima è perché il Rinascimento comunque è un periodo storico fondamentale, per, a mio modesto modo di vedere, ma anche per alcuni storici, per comunque la creazione di un'identità nazionale. È comunque il passaggio, nonostante l'Italia fosse poi divisa per signorie o comunque invasa da stranieri, o suddivisa in Centro Italia con lo Stato Pontificio, è stato un periodo in cui siamo usciti dall'oscuro del Medioevo, quindi sono ricominciati i commerci, sono ricominciati la circolazione di artisti e di conoscenze, e Lorenzo Magnifico è il rappresentante di questo, diciamo, è l'icona del Rinascimento italiano, perché ha contribuito allo sviluppo soprattutto culturale di Firenze. Questa è una. La seconda è che in effetti è un personaggio molto moderno, è vero che lui si rifaceva ai principi del principe di Machiavelli, anche se poi non lo condivideva in pieno, però è un personaggio che può tranquillamente essere un politico moderno, molto attento all'apparenza, agli discorsi, al modo in cui si presentava in pubblico e come appariva la sua città a Firenze, ai fiorentini, ma anche agli estranei. E poi è stato il primo a cercare di convogliare su di sé, o comunque su di sé, perché poi il potere lo ha preso lui, una coalizione di signorie o stati italiani contro le invasioni o le ingerenze dell'imperatore. Beh, se ricordo bene, lui fu definito proprio l'ago della bilancia italiana, facendo seguito a quella che era stata la pace di Lodi. Esatto, quindi esattamente. Tanto è vero che lui, dopo la sua morte, che è avvenuta nel 1492, con la scoperta dell'America. Nel 1944, appena ricompaiono le discordie tra gli stati italiani, Carlo VIII invade la penisola, quindi proprio a dimostrazione di come lui avesse ben interpretato la situazione storica e avesse capito che soltanto uniti gli stati italiani sarebbero potuti essere tutelati, sarebbero stati maggiormente tutelati rispetto alle ingerenze dell'imperatore. Quindi, insomma, mi sembra di capire che in realtà effettivamente è anche un po' una ripetizione di quella che è la storia della nostra penisola e delle sue travagliate vicissitudini, insomma, per giungere a questa unità. Esatto, sì. L'idea era proprio quella di farlo, però non attraverso semplici date, ma attraverso la vita di chi poi la storia l'ha veramente fatta. Dicevi prima che non hai parlato solo di uomini e di donne che hanno cambiato insomma, la storia dell'Italia, ma c'erano anche altri punti di vista. Magari se ci puoi accennare brevemente quello che c'è insomma, sul tema, in maniera tale magari da poter suggerire anche eventuali letture ai nostri amici ascoltatori. Allora sì, io quando ho detto in quel modo intendevo dire che c'è molto dentro il libro, nel senso grazie a Ledda, che è ad esempio una scrittrice, oppure c'è Gianni Agnelli, vabbè, che è un imprenditore e poi politico, oppure c'è figure secondarie come ad esempio Alfonsina Strada, una ciclista, o attori come Anna Magni o Alberto Sordi o il regista come Federico Fellini. Cioè intendevo dire che è stato proprio, ho cercato di mettere dentro il libro ogni aspetto della vita, non solo politica ma anche culturale, sociale, italiana. Ah, ok, pensavo invece ci fosse un'opera insomma che facesse riferimento anche ad altri aspetti insomma della nostra unità. Ah, no, io intendevo semplicemente dire va bene, che sì. ho cercato di analizzarla sotto varie luci, ecco. Ho capito. Io Simone, non mi meraviglia che sia stato più difficile trovare delle donne, perché insomma gli uomini sono stati a lungo sulla scena politica, quindi a lungo hanno avuto il potere, per cui era più difficile per le donne riuscire a emergere, ad essere visibili, quindi complimenti per l'avere trovate, perché in effetti credo che il lavoro, come per esempio fatto alla corte francese, fosse estremamente importante, però che non veniva riconosciuto immediatamente, non era visibile, si vedevano solo i risultati. Io volevo farti una domanda, ci sono dei politici, tra virgolette, moderni, cioè di questo secolo? Sì, dunque, cioè, come ho detto, Indeiotti e Tinanzelmi, fra le donne, per vari motivi. Indeiotti è stata la prima donna ad essere presidente della Camera, è stata una delle poche donne a far parte dell'Assemblea Costituente, quindi per la sua storia ho creduto giusto metterla così. Tinanzelmi, che ha rappresentato comunque una figura di politico forte, di donna forte, che è emerso in un mondo maschile quando è stata capo della commissione di sulla TV2, ad esempio. Mentre di politici moderni ho semplicemente messo Benito Mussolini per ovvie ragioni. Certo. Perché il ventennio, insomma, è vent'anni di storia italiana. Altri non li ho messi, e nell'introduzione ne ho anche fatto un breve cenno, perché credo che per un libro, soprattutto per un libro in questo modo, sia molto difficile riuscire a giudicare l'impatto che può aver avuto un nome tra tutti ovviamente Silvio Berlusconi sulla politica italiana adesso, e non essendo io uno storico di professione né un politologo, trovavo un po' difficile riuscire a fare un'analisi anche obiettiva magari o lucida su quanto possa aver cambiato la vita politica o la società italiana. Invece l'altra domanda invece era una tua riflessione su Garibaldi, perché una volta qualcuno ha definito Garibaldi come un guerrafondaio, cioè un brigatista sostanzialmente, che aveva degli ideali e che cercava di portare avanti, perché in effetti lui ha sovvertito l'ordine costituito. Ora, tu che hai analizzato per bene la figura di Garibaldi, che idee ti sei fatto? Abbiamo già detto che era un utopista, ma era veramente un guerrafondaio o no? Posto che per l'ordine costituito, quindi per tutti i regni che sono stati cancellati l'unità d'Italia, lo era, cioè, ovviamente dal loro punto di vista, però dal tuo punto di vista, il suo carattere qual era? Questa è una bella domanda, anche perché bisogna innanzitutto contestualizzare il periodo, come ho detto prima. Quindi comunque la guerra era il modo principale per risolvere qualsiasi tipo di controversia internazionale ma anche interna. Quindi è molto difficile dirlo. Allo stesso tempo ad oggi spesso è sottile la linea tra un terrorista reale o un brigatista, come puoi aver detto tu negli anni 70, anche se quello poi in effetti è una cosa un po' diversa, e un patriota. Molto sottile, perché chiaramente nel momento in cui si fa una battaglia, una guerra, una rivoluzione, c'è sempre qualcosa o qualcuno da sovvertire. Chiaro. Sempre, non riusciamo nemmeno oggi a regolare il diritto internazionale, figuriamoci. Quando non esisteva. Io credo che sia stato un idealista, però anche un fine politico, nel senso non si fa l'Italia in qualche modo se non si ha anche una dose ben equilibrata tra slancio, idealismo, ma anche un po' di pragmatismo politico. Lui doveva comunque sempre bilanciarsi con Cavour in qualche modo, poi spesso faceva di testa sua, infatti però quando faceva di testa sua veniva imbrigliato, imprigionato oppure mandato a fare, come nella prima guerra di indipendenza, piccole azioni quasi irrilevanti poi per il destino della guerra. Io sono molto condizionato perché è una figura che mi affascina molto, quindi dico no, assolutamente non un terrorista, ma un rivoluzionario. Ti ringrazio per aver... Sicuramente. Ti ringrazio di aver dichiarato che la linea è sottile fra un terrorista e un rivoluzionario, anche perché lo sappiamo a livello internazionale, e che tu hai richiamato, non esiste ancora oggi una definizione di terrorismo. No, non c'è. Sì, sembra paradossale, però noi combattiamo il terrorismo, però non abbiamo una definizione di terrorismo. Quindi questo ancora non c'è un accordo preciso su che cosa il terrorismo sia, in effetti. No, non c'è una definizione. Esatto, quindi si può ovviamente definire quello contro un atto contro civili e mermi, può essere terrorismo, però allo stesso tempo anche chi ha un mandato internazionale per fare una guerra e quindi è legittimato comunque in teoria per le nostre leggi a farlo. Ecco, le bombe intelligenti alle volte sbagliano. Cioè, i danni collaterali si chiamano. Esatto. Però insomma, in quel caso è barbarie, quindi contro i civili inermi è barbarie. Esattamente. Su Garibaldi, visto che è di no. Anche in un altro periodo storico, almeno la mia visione è quella di escludere l'idea che fosse un terrorista. Ecco. Siamo assolutamente d'accordo. Simone, cosa bolle in pentola? Cosa prevedi per il prossimo futuro? Mio della casa editrice. Magari tuo, insomma, stasera sei tu il nostro ospite. In realtà qualcosa in pentola bolle è più relativa a una storia, però io in realtà non mi reputo uno scrittore, credo di saper scrivere raccontare abbastanza bene le storie di persone, cioè dove comunque una trama è già stata scritta da loro nella vita reale. Quindi l'idea sarebbe quella di fare una biografia su uno sportivo leggermente dimenticato che mi sta un po' affascinando, ecco. Di cui non possiamo ancora svelare l'identità. Svizzero del... Cosa? Di cui non possiamo svelare l'identità? Ah no, possiamo, ma è meno noto e più, si chiama Ugo Koblet, è un ciclista svizzero degli anni 60 che, detto così, effettivamente non suona benissimo, ma ha una vita molto particolare. E non è italiano, però è svizzero, oppure svizzero-italiano? No, è svizzero. Ah, svizzero-svizzero. No, assolutamente svizzero del cantone tedesco. Ah, e invece, rapidamente magari della casa editrice? La casa editrice partirà a breve, ma breve, dopo l'estate, con una nuova collana di narrativa italiana, su cui puntiamo moltissimo, e quindi il lavoro è concentrato principalmente su quello. Autori non esordienti, ma già comunque che hanno già pubblicato anche magari con case editrici più importanti, più grandi. C'è un saluto a qualcuno questa sera, insomma, vuoi approfittare dei nostri microfoni ancora per un saluto, un commento, insomma, abbiamo ancora un minuto. Ma non mi vergognerei un po' a salutare qualcuno. Diciamo che nel libro, nella sono le dediche a tutti quelli che mi hanno aiutato, perché è difficile scrivere biografie così diverse, passare da Giulio Cesare a Gianni Agnelli e Tina Anselmi, sono più di 2000 anni di storia, e quindi cambiano anche semplicemente le parole per parlare di certe delle loro azioni, oltre al fatto che chiaramente le competenze devono essere molto varie, dal cinema alla politica, quindi ringrazio tutti quelli che nei loro vari settori mi hanno aiutato e mi hanno anche corretto magari in qualche imprecisione storica o interpretativa. Bene, Bruxellando quindi si unisce ai tuoi saluti. Noi ti ringraziamo per la squisita presentazione di questo tuo libro, che quindi ricordiamo, Gli uomini e le donne che hanno cambiato l'Italia, edito da Barbera. E, Simone, noi ti auguriamo tutto il meglio e magari chissà, con la nuova stagione di Bruxellando, anche noi ormai siamo quasi al termine per quest'anno, magari parleremo ancora di qualcos'altro. E anche una gran bella estate ormai. È molto piacere, ovviamente tra i ringraziamenti anche voi, che vi avevo dimenticato. Facciamo parte del gruppo di lavoro, non serve. Simone, buona serata. Grazie ancora. Grazie anche a voi. Presto. Ciao. Ciao. Salut, je suis Dani, et si comme moi tu veux faire partie de l'équipe de bénévoles de Radio Alma, envoie un mail à l'adresse mail@radioalma.be. A bientôt. Librangolo. Grazie. Magari allora, cioè, siccome devo comunque continuare il pensiero di prima, uno dei pensieri di prima, cioè vi ricordo il Shogun di James Clavell, in cui il Shogun, che siamo nei tempi feudali giapponesi, in cui la fedeltà al tuo, diciamo, padrone proprio viene prima di tutto, che là arriva questo inglese e il Shogun chiede, ma quindi lei pensa che ribellarsi contro il proprio padrone sia una cosa giusta? E lui risponde, ci sono delle condizioni attenuanti, a cui dice no, non esiste, non possono esserci delle condizioni attenuanti, a cui lui risponde ce n'è una, quando vince. E magari anche questo è una linea di divisione fra certe cose e certe altre. Comunque. Quindi ci si può ribellare al Shogun quando ribellandosi si vince lo Shogun. Si vince, magari diventi tu Shogun, quindi scrivi tu la storia, cioè questa è un'altra linea di divisione nella storia. E con questo già vi ho ricordato un libro. Yeah! Comunque, adesso non volevo parlarvi del Shogun, questo è soltanto arrivato dal contesto, volevo parlarvi dell'eleganza del riccio di Muriel Barbery, che di nuovo stiamo arrivando sui terreni conosciuti. Ecco, un libro anche abbastanza conosciuto, che ha avuto tantissimo successo, e in cui si tratta di due persone che cercano di nascondersi in un mondo in cui non si sentono veramente capiti, se possiamo dirlo così. C'è una ragazzina che vuole suicidarsi al suo prossimo compleanno perché non vuole diventare adulta, perché vede che nel mondo degli adulti vede delle cose, un tran tran nella vita che è accettata, dei fallimenti, anche di una resignazione dal suo punto di vista inaccettabile, e della trasformazione dei caratteri in dei falliti, che a lei non piace e lei non vuole arrivarci, non vuole vivere questa trasformazione in cui tutto questo diventa accettabile. E l'altra invece è una portinaia che si nasconde la sua intelligenza dietro una figura di portinaia, cioè nel senso che lei sta interpretando la portinaia che sta guardando la televisione, che non sa dire due parole intelligenti in croce, che non si preoccupa di altro che del suo gatto, che però di nascosto nella sua stanza legge Trattati filosofici e Anna Karenina. Vero. Il momento di svolta arriva quando c'è un giapponese che entra nel palazzo. Ma perché deve entrare un giapponese nel palazzo? Lo so, si vede che questa fascinazione con il giapponese e con i giapponesi non è soltanto mia. Cioè, la ragazzina, per esempio, è affascinata dai manga, che per certe storie lei lo trova molto più, diciamo, delle storie molto più ricche di tante opere diciamo superficiali, e che addirittura la induce di imparare un po' di giapponese. È una ragazzina super intelligente, niente da dire. E invece lui vede anche attraverso questa maschera della portinaia, e la riscopre come una donna intelligente, che però ha anche in certo senso paura della vita, che si è già ritirata e non vuole altro dalla vita che nascondersi in sicurezza dentro il suo appartamento. E da questa situazione poi arriviamo là dove arriviamo, questo non ve lo dirò mai, dove arriviamo da questa situazione. Comunque quello che vi dirò è che questo romanzo è comunque una oda, diciamo, all'amicizia, alle piccole bellezze nel mondo. Cioè, specialmente quello che ho apprezzato, per esempio, è che la ragazzina sta scrivendo un tipo di diario per sé, un po' di capire il mondo che lei si prepara a lasciare. E per esempio uno dei capitoli del suo diario è l'analisi di movimenti perfetti nel mondo, che possono essere qualsiasi cosa, può essere un movimento di danza, ma può anche essere un cane che si muove bene, cioè può essere qualsiasi cosa, è soltanto un movimento di perfezione, e sono questi momenti di perfezione che uno deve molto stare molto attento per notare attorno a sé, che colpiscono comunque e comunque fanno un po' parte della filosofia che poi il libro, la filosofia di vita che poi il libro cerca di trasmettere. Cioè, io mi sono divertita con questo libro, mi è piaciuto tanto, anche se all'inizio mi pareva un po' troppo del buono, diciamo. Ci sono delle parti in cui, per esempio, la portinaia sta analizzando un libro di filosofia che io ho trovato sinceramente un po' un'esagerazione. Però quello che mi è piaciuto del libro era piuttosto alla fine questi piccoli elementi, il modo in cui si arriva allo snodamento, il modo in cui la vita dei personaggi si sta sviluppando, si sta trasformando. Ed è per questo, e altrimenti comunque, che vi raccomando questo libro calorosamente quanto il tempo torrido fuori bruxellese. Ma se mi pare di dettagli, forse ecco perché c'era un giapponese che entra nella storia, data. Perché? Beh, perché i giapponesi sono estremamente focalizzati sui dettagli, sono maniaci della perfezione, questo lo vediamo dovunque. La loro tecnologia ha sempre teso al 100% alla perfezione, ma anche la produzione di auto sono arrivati al 100% di qualità. Diciamo che comunque noi tendiamo di idealizzare, cioè per esempio anch'io sono affascinata dalla cultura giapponese, è diversa dalla nostra, però se noi guardiamo la cultura giapponese di oggi, non sta veramente sotto l'insegna di quello che stai dicendo, cioè nel senso sì, ne fa parte, però ci sono un sacco di elementi che li rendono altrettanto superficiali molto spesso di quanto siamo noi, quindi non è che uno è predisposto di essere uno che apprezza, non so, bere, diciamo, del tè da una tazzina vuota, cioè nel senso di avere la capacità di osservare il mondo, ma anche di non è necessariamente un essere spirituale. Magari nella sua cultura, se lui sceglie o se lei sceglie, può impararlo, perché c'è nella sua cultura, fa parte fa parte dell'aria che sta respirando, ma non necessariamente si arriva qua, non necessariamente, cioè magari finisce semplicemente a guardare delle trasmissioni molto stupide nella televisione, a cantare karaoke ogni sera e bere della birra e dimenticarti del mondo, cioè capisci quello che voglio dire? Più o meno. Non veramente, dovresti riformularne in altri pensieri. Questa volta non sono riuscito a seguirti perché voglio sei stata semplicemente influenzata... dire che c'è una discrepanza fra quello che noi immaginiamo del Giappone in base alla cultura antica che veramente ci hanno e la vita contemporanea nel Giappone, che non necessariamente produce, fra virgolette, degli individui che siano veramente capaci di guardare i dettagli, di focalizzarsi, di guardare i dettagli, di, eccetera, eccetera, eccetera. Sono un Sono d'accordo con te su questa faccenda, però ci sono comunque dei residui. Certo, il fatto che non si riesca a vendere dei lucci da labbro, dei rossetti in Giappone che abbiano durato superiore a 6 ore, la dice lunga, no? Quindi è un'attenzione al dettaglio, cioè una cura estrema delle cose, frivola se vuoi, però comunque un dettaglio estrema, così anche annunciamo questa cosa qua strana dei giapponesi, mentre noi in Europa puntiamo a dei prodotti cosmetici, lo metti la mattina, dura fino alla sera. In Giappone questo non vende neanche un rossetto, perché loro sono abituati invece a rifarsi il trucco dovunque e comunque, mentre stanno cadendo da un aereo, mentre vanno in ascensore, in treno, mentre aspettano la parrucchiere, 3 o 4 volte al giorno. Quindi ha poco senso vendere un rossetto. Sì, però il giapponese di oggi tende piuttosto a guardare il suo telefonino che guardare il, diciamo, una magnolia su un muschio. Cioè. Questo è vero, però non si può negare che ci sia comunque una bella fetta di gente e di persone, sì, che comunque, ecco, io dire, è sull'importanza del dettaglio. Avrà fatto la foto della magnolia del muschio nel cellulare, guarda. Questo per esempio può essere un'ottima soluzione, però cioè, l'attenzione, sì, al dettaglio, non sto dicendo che deve essere sempre importante, no? Quindi il dettaglio della magnolia o il dettaglio del tè nella tazza vuota o il dettaglio di una pianta, può essere anche il dettaglio, come si diceva, di un fuorviante del mio telefonino, se c'hai graffi, non c'hai graffi, se c'è questo, c'è quest'altro. No, non lo so, cioè io direi semplicemente che quello che magari è diverso è che nel Giappone c'hai la possibilità, cioè nel senso che fa parte della cultura. Se io qua vado a fare un corso di ikebana è artificiale, se loro vanno o cerimonia del tè, diciamo, certo, io mi faccio qua un corso del cerimonia di tè, è un po' fuori del comune, sono un po' strana. Invece là comunque fa parte della cultura, se tu scegli, sono comunque elementi della tua cultura, puoi sceglierli, è naturale sceglierli. E allora una domanda sorge spontanea, come si diceva molto molto tempo fa in Italia: tu sei favorevole allo spostamento a prendere qualcosa da una cultura tale quale, o sei sempre favorevole all'interpretazione? Mi spiego meglio: è meglio lo yoga nella versione indiana o è meglio lo yoga di origine indiana nella versione occidentale? No, io questo discorso secondo me non c'entra molto tantissimo con quello che stavo dicendo, perché hai fatto una domanda che sorgeva, sta causando. Se sorge, comunque io non sono sfavorevole, per esempio io sto benissimo con la yoga che è praticata in Europa, anche se è leggermente modificata rispetto a quello che non conosco nemmeno quella originale indiana, quindi non mi posso nemmeno pronunciare, quindi non ho niente. No, parlavi di cerimonia del tè che è fatta qui in Occidente, perde senso perché è, diciamo così, fuori contesto. Allora ci sono un sacco di cose culturali che una volta che sono decontestualizzate perdono anche un po' di valore. Per questo dicevo che secondo me per interpretare una cultura va significati, diciamo. Sì, esatto. Quindi non si può avere la cerimonia del tè in Occidente esattamente identica a quella giapponese, forse nei gesti, ma non certo nei contenuti. Tempo è tiranno. Ai, mannaggia. Come l'avevo detto stasera? Fugit irreparabile tempus, come diceva. Questo lo dice la nostra ospite di questa sera. Sì, che non credo parli. Chi diceva fugit irreparabile tempus? Comincia con la O e finisce con la O. Oh, quindi facile. Ok? E siamo in bilico fra Orazio e Ovidio. Beh, insomma, io lascio a voi l'ardua risposta. Sì, ne parleremo martedì prossimo. Cari amiche, cari amici, grazie per averci ascoltato anche questa sera. Noi vi auguriamo un'ottima settimana, sperando che questa sera non ci sia tempesta, perché così pare, insomma, annunciarsi. Ringrazio Daniele in regia. Saluto la mia piccola Federica, che sarà qui con noi ancora martedì prossimo. Ringrazio George e ovviamente Fiordaliso per gli squisiti suggerimenti di lettura, e ci ritroveremo su Radio Alma, Brussellando 101.9, martedì prossimo alle 20. Ciao Meredì.